trovavo almeno un pizzico brigadier, ce lo deve avere un pizzico QB, quanto basta. E poi quello che mi chiedo io, brigadier, come lo fa a sapere uno quanto basta? Non sono cose che si sanno, uno prova. L'esperienza fa l'uomo, così diceva mio zio. È molto giovane mio zio. Che stavate ridendo, brigadier? Non ho capito, stavate ridendo? Parlate più forte, chiaro? Forte e chiaro, brigadier. E abbassate la musica, brigadier, per favore. Mena, abbassatela la musica. Brigadier, mi si incastra in capo, non mi fa pensare. Per favore, la volete abbassare la musica? Mo, siccome non trovo nemmeno un granello, mica mi potete dire le parole. E che si dicono le parole? È meglio non dire niente. Che chi fa? Sbaglia. Ma chi sta zitto non sbaglia mai. Anche perché, avvicinatevi brigadier, se sbagli viene il diavolo e ti prende. Ai cattivi se li prende il diavolo. A me il diavolo non è venuto. Avete visto un diavolo voi? Non ci sta, non è venuto. Perché c'è l'elenco, brigadier. L'elenco delle cose dove si mette il sale. È per questo che non è venuto. Perché io il sale l'ho messo giusto. Cosa? No, brigadier, io dipendesse da me per niente. Nemmeno un pugno di sale ci metterei. Nella pecora, brigadier, quella la devi fare cuocere senza sale. Poi, se proprio aiuta, allora ce lo metti. Ma solo alla fine, eh? Perché la salatura voi la sottovalutate, no? Io no. Non la sottovaluto. Io? Noni, ho detto che non la sottovaluto. Sono errori che non faccio. È un dilettante chi li fa. Non mangio nemmeno un uovo cotto da un tizio così. Lasciatevi pregare. Mo, e non mi interrompete sempre, brigadier. Uno sta parlando, perde il filo. Mo, com'è che stavo dicendo? Ah, ecco, che io dipendesse da me per niente. Lo giuro. Lo giuro. Tutta la verità. Ho imparato così e così me ne vado. Un tempo ci ho messo, un bel tempo lungo dentro il quale ho sperimentato. Sperimentato. No, quello che dice la gente, brigadier. Ma la carne costava troppo. All'esperimento. La carne. Per forza, brigadier. Per sperimentare mi serviva la carne. Come faccio? Come non faccio? Mi è venuta l'idea e me la sono procurata. Mea culpa, che devo bruciare nelle fiamme dell'inferno, ha detto il prete. Tutto per il sale. Se me ne vado a bruciare, brigadier, il sale lo dovete mettere giusto, mi raccomando. Peccato mortale. Al prete gli ho detto, no padre, così gli ho detto, voi ve ne dovete andare a bruciare, ho detto, non io. Onoro il padre e la madre, santifico le feste, ma a bruciare ve ne dovete andare voi. E poi qua non è nemmeno venuto il diavolo, che volete da me? Sono cattivo? E il diavolo dove sta? È venuto a prendermi il diavolo, avete visto un diavolo voi? No, e allora state zitto! Certo, brigadier, a disposizione. A domanda rispondo, come mi ha insegnato il collega. Brigadier, a domanda rispondo. Brigadier, e fatemi la domanda. Oh, bravo il brigadiere! Io di quello che volevo fare nella vita, niente davvero. Non mi ci sono riuscito di fare nulla. tranne una, il cuoco. È difficile, brigadiere, difficilissimo, è per il sale. Tu non devi sottovalutare, tu sottovaluti e sbagli, dolce. Tu sottovaluti e sbagli, salato. E poi la gente dice le parole e io in mezzo alle parole. Si può vivere la vita così? È una domanda? E la risposta, brigadiere, o no o sì. Nei test dove mi misurano dice 50 e 50, è possibile che non l'azzecchi? E ride. Vabbè, comunque ecco il fatto. Mia madre dice, devi cucinare tu che io sto fuori, devi cucinare tu. Va bene, dico io, lei se ne va, io cucino. Sembra facile, brigadiere. E non è... Sì, il fatto. Non mi guardate così, brigadiere, ho detto scusate, che devo fare? Che mi state facendo l'occhialino? Sicuro? Vabbè, comunque quando uno dice scusate è tutto in gioco, Zero a zero. Sono le regole della vita civile e sociale, come dice la dottoressa. Vuoi vivere nella vita civile e sociale? Allora le regole. Io le regole le so. Ci ho messo un tempo per impararle. Adesso a me non mi potete dire niente delle regole. A me del sale mi potete dire. Mettere il sale e metterlo giusto per stare bene con me stesso e col mondo, come dice la dottoressa. Mangia, Giuda, naso schifoso pieno di germi azzeccati dagli altri. Ma com'è che era? È il freddo che mi azzecca il germe o me lo azzecca il vicino di banco? Che stava ridendo, brigadiere? Ridete, brigadiere, ridete, che se ridete nessuno è cattivo. Se vi faccio ridere dalla parte mia state, niente mi potete fare. L'occhiolino che mi fate, quello è. Nemmeno una volta dovete ridere. Come è simpatico, il tipo è fatto tutto strano. Come sono simpatico, eh? Mio padre? Mio padre, la mattina... Ma ogni mattina mio padre metti 7:15, se ne esce e se ne va a comprare il giornale. Brigadier, tutte le mattine, ogni giorno lui fa così, esce a mani vuote e ritorna con il giornale. Io lo so perché la mattina mi sveglio presto. Dormo poco. Sì, mi sveglio presto. Avete capito? Sono le pillole. Sto nervoso io senza le pillole. E sto nervoso con le pillole. Sono nervoso io, brigadier. Allora, io che vi vedevo fare questa cosa ogni mattina, arriva il giorno che mi metto a chiedermi, ma che cosa ci sta in questo giornale che questo tutte le mattine metti 7:15, se ne esce e se lo va a comprare? Arriva il giorno che la curiosità, si sa come la curiosità, no, brigadier? La curiosità è una femmina bugiarda, come dice mio padre. Arriva la curiosità, io mi metto e apro il giornale. Voi non ve lo potete nemmeno immaginare che cosa ci sta in un giornale. Parole e fotografie. Tantissime. Lettere grosse e lettere piccole. Bello, bello. Mi sono trovato bene. Una cosa incredibile. Sì, vabbè, ma forse voi già lo sapevate, io ci faccio la figura del fesso, no? Sì, vabbè, se dovete ridere, ridete. E si fanno tutti una risata, mo, che il brigadiere è più fesso che non può ridere? Ridete, brigadiere, ridete pure, basta che non dite le parole. Eh? E dove eravamo? Ah, il giornale. Beh, se proprio volete saperlo, la cosa che mi colpisce di più è che io il giorno dopo apro di nuovo il giornale e le cose scritte dentro erano tutte diverse. Lo giuro, è tutta la verità, erano tutte diverse. C'erano sempre lettere grosse e lettere piccole, ma le parole scritte erano tutte diverse. Allora io mi faccio appassionare. Mi appassiono e ogni giorno mi leggo il giornale e a mio padre fa piacere perché dice che mi facciano la cultura e mia madre a cucinare. Vola, vola. Tanto mica puoi uscire. Nessuno può uscire. Dico bene al brigadier. Nemmeno una mosca. Non è vero, brigadier? Tieni, brigadiere, a domanda rispondo. Un giorno vuoi o non vuoi, ci mettiamo a tavola. Pranzo, improvvisamente, tra il primo e il secondo. Mio padre mi chiede cosa ne penso di una notizia che stava sul giornale. Allora io ho risposto e in quel momento stavamo parlando. Io e mio padre. Sembra che uno non ci può crederci, oh, ma stavamo proprio parlando, come due persone che si scambiano le opinioni. Non so se avete presente voi, brigadier, quando due persone si scambiano le opinioni. Insomma, io e mio padre là, seduti, a parlare delle cose dei giornali, e mia madre a sparecchiare. Allora io ho capito, brigadiere, che le cose stavano cambiando, mi spiego? Le cose cambiano da un momento all'altro, brigadier, come cambiano ogni giorno le notizie sui giornali. Sarà successo pure a voi, non è vero, brigadier? Non sarà successo che un giorno vi siete girati a guardare fuori che tempo faceva e le cose sono cambiate? Non vi preoccupate, brigadier, tutto si aggiusta. Tutta la verità, brigadier, tutta la verità. Allora, da quel giorno mia madre e mio padre si cominciano a fidare di più di me. Mi lasciano da solo a casa. Non mi vengono a prendere dal centro. Vado ad un centro io, per la riabilitazione della testa. A chi li cadono i capelli e chi va al centro. Si fidano. Avete capito chi? Dite sì, ho capito. Non mi fate l'occhiolino. Perché mi fate l'occhiolino? Sì, vabbè. Fino a quando arriva il giorno che mia madre dice devi cucinare tu che io sto fuori, devi cucinare tu che io esco. Voglio dire, brigadier, un figlio che cucina, questo è il massimo della fiducia, eh? Io stavo benissimo, sì, benissimo, con me stesso e col mondo, come dice la dottoressa. Mannaggia, fa freddo qua dentro, brigadier. Così prende e mi raffreddo forte. Peggioramenti. Che già vola. Sto dicendo il naso, brigadier. Scusate, brigadier, l'educazione. Sì, sì, brigadier, mi metto a leggere il giornale. Appassionato. Cronaca spesso, perché i fatti della gente mi interessano. Mia zia dice che se ero donna dovevo essere pettegola, ma siccome sono un uomo, allora non sono pettegola. Questa è una cosa che appena ho capito il problema del sale mi devo mettere a studiare. Il singolare femminile. Ma questo è un altro discorso. No, il filo, eh? Il filo. Il filo del discorso, brigadier. La cronaca. Sarà che sono pettegola, ma a me la cronaca mi piace. E mi leggevo sempre io di queste notizie dei mariti che ammazzano i figli, dei bambini sciolti, se non ho capito male, eh? Vabbè, comunque, leggo oggi, leggo domani, ogni giorno una notizia di una qualche barca che è affondata nel mare Adriatico. Mare Nostrum. E i corpi alle volte si trovano e altre volte non si ritrovano. E quelli che non si ritrovano? Peccato mortale, ha detto il prete, peccato mortale. Questi immigrati saranno il vostro peccato mortale, ha detto il vescovo. Un vescovo l'ha detto. Del nord. Sembrava chissà cosa doveva succedere con questi immigrati e io invece sono diventato uomo. Tutta la verità, brigadier, tutta la verità, senza tergiversare, senza... Mi state facendo un occhiolino, eh? Non è un occhiolino? E dove devi sfuggire? Muore, detto il brigadiere che non esce nessuno. Sì, nel brigadiere domanda rispondo. Ma primo giorno, brigadiere, torna mia madre e torna mio padre. Ci sediamo a tavola tutti e tre. Mio padre a leggere il giornale e mia madre a fare i piatti. Faceva i piatti nel senso, avete capito, no? Insomma, assaggiamo la pasta, dolce. Ma il sale l'hai messo? Certo, dico io, l'ho messo il sale. Non era vero, brigadier. Onora il padre e la madre. Me ne vado a bruciare nelle fiamme dell'inferno, già lo so. Sì, è inutile che mi fate l'occhiolino. Bah. Secondo. Pollo. In padella. Facile, facile. Metto l'olio, metto la carne, sale, servo, salato, troppo sale, pollo, salato. Ma ero alle prime armi, eh? E non ti fa scoraggiare, non ti fa scoraggiare, va bene, dico io. Non mi faccio scoraggiare. Dopo 3 o 4 giorni, mo adesso io per bene, non mi ricordo, brigadier, quando ho iniziato. Era un mercoledì quando ho iniziato, no? Era mercoledì, giovedì. Poi quello dopo, il sabato. Era sabato? Sabato era, no? Era sabato? Sabato. Il sabato metto giusto il sale nella pasta e tutti a farmi complimenti. Oh, va bene, grazie, dico io, adesso non esageriamo. Assaggiamo il secondo, dolce. Basta, revocato. Tutta una volta, revocato. Il timbro ho messo sulla mia fotografia, pum, revocato. Ma cosa? Io revocato. In che senso? Nel senso che da domani non cucini più. E perché? Perché non hai capito il sale e non lo capirai mai. Avete capito, brigadier? L'affronto? La sfida che io dovevo vincere? Lo capite voi che mi fate l'occhiolino qua? E gli altri qua che mi guardano e non hanno detto una parola dall'inizio? Io ho declassato il timbro messo sulla mia fotografia, revocato, ma cosa revocato? Ma chi mi revoca a me? Allora volete la guerra? Ve lo devo dimostrare e ve lo dimostro. Accetta le sfide, dice la dottoressa, non ti preoccupare se perdi. Accetta le sfide, dice la dottoressa, voi mi sfidate e io accetto la sfida. Come faccio, come non faccio, si mette a lavorare il cervello obbligativo così veloce che uno non ci sta nemmeno dietro quei pensieri. Le parole si mischiano tutte in testa e dalla bocca non ne viene fuori nemmeno una. Arrivano sulla punta della bocca e non vengono fuori. Non so se avete presente voi obbligativo, quando il cervello si mette a lavorare e sta cercando una soluzione, a me sembra di vedere il cervello tutto aggrovigliato di frasi, una dietro l'altra, le frasi che non escono e ritornano indietro e si mischiano le altre frasi e uno si trova così in mezzo alle parole, esatto, maledetta, te maledetta, ci dico io, mo che c'è di pazzo. Mo com'è che stavo dicendo, brigadier? Ah, si mette a lavorare il cervello, brigadier, che sono testardo io e la mattina dopo me ne vado alla macelleria a comprare la carne che costa assai e questo, brigadiere, io non lo sapevo e vedo che mi fate l'occhiolino, vedo che lo intendete. Me ne vado a casa quando non c'è nessuno, in silenzio, apro la porta, entro in silenzio, apro la porta della cucina e quella mia sbattere contro il muro, zitta! Assaggio, salato, frigo, sale, dolce, dolce, dolce, dolce, salato, finiti i soldi e non so che fare, non so proprio che fare, noni, noni, stavo in mezzo ad un incrocio, sì, ad un incrocio, ho il bivio, come che si diceva, brigadieri, bivio? Sì, vabbè, ma queste sono fesserie, eh? Il sale è stato il vero problema. Con il sale tutto a posto, senza sale niente, nessuno, da solo. E dite sì, ho capito, non mi fate l'occhiolino. Ma il cervello se ne esce dall'incrocio e mi viene l'idea. Come da piccolo, quando per l'idea si accendeva la lampadina. Da piccolo si accendeva la lampadina per l'idea? Adesso dice che la corrente la pagate voi e non volete che mi vengano le idee perché volete risparmiare. Ha! A me le idee mi vengono lo stesso, brigadier, mi vengono le idee nascoste e voi non lo sapete. E pagate, peccato veniale, brigadier, non ve la potete prendere con me. Ma vedete se la prendo a quella che fine fa. Ah? L'idea? Per strada i cani randaggi. Sì, dico prendo un cane randaggio e faccio l'esperimento. Sì, ma io ho avuto sempre paura dei cani randagi, quelli hanno la rabbia e io non voglio azzeccarmela e basta, questa è l'idea. No, buona, buona. Finite le idee, finito tutto. A tutto c'è rimedio fuorché alla morte. Così diceva... Chi è che lo diceva? Brigadier, gli essemannanti, chi è che lo diceva? Tutti lo dicevano, lo dicevo io che lo dicevano tutti. Io quando mi venivano le idee da piccolo me le andavo a cercare al mare, perché il mare sta là da tanto tempo e si muove. E magari corri il rischio che ti arriva in braccio un'idea dall'Africa. Un esempio. Sì, Brigadier, me ne vado al mare. Prendo il giornale e me ne vado al mare. Da piccolo, piccolo me ne andavo con mio nonno, poi da solo, quando mio nonno è morto. Di sera è morto. Ci ha fatto spaventare. Sì, Brigadier, me ne vado al mare. Prendo il giornale e me ne vado al mare. Io c'ho un posto tutto mio dove non ci va nessuno, perché lo devi conoscere. È una specie di grotta piccola tra due insenature alte. Io da piccolo andavo a giocare sempre lì in quel posto, mi arrampicavo, scendevo, rincorrevo tutti gli animali. Le formiche. Le lucertole e i granchi. E mi fermavo sempre a cercare di capire come facevano le formiche a non andarsene nell'acqua, le lucertole a rimanere sulla terra e ai granchi a starsene nel mare. Cercavo di capire come facevano tutti a sapere quello che dovevano fare, mentre io non sapevo nemmeno tornare da solo a casa, sì. Tempi andati, brigadier, tempi andati. Sì, va bene, mi fate l'occhiolino, sì. Apro il giornale. Cronaca, clandestini, affogamento. Ma dove se ne vanno i corpi che non vengono ritrovati? Mi spiego, brigadier. A me la domanda mi è venuta semplice. Che sembra, ma io cretino non sono. Io sono un posto. È stato un caso. E dove? Non lo so. Saranno le correnti favorevoli? Si fermano i corpi. Sui giornali non so se avete mai notato, ci stanno queste notizie della gente che affoga nel mare Adriatico, Mare Nostrum, e i corpi, vuoi o non vuoi, da qualche parte devono andare. E quelli là vengono. Saranno le correnti, che ne so. Ogni tanto arriva un corpo. Io lo prendo, lo spoglio. E beh, perché arriva ancora coi vestiti, no? E una volta spogliato quella carne. Carne per sperimentare, carne gratis. Sì, lo prendo, lo spoglio, lo taglio e comincio a sperimentare. Loro hanno questo problema che sono morti. Io ho questo problema del sale. Immigrati loro, italiano io. Sta scritto sui giornali che siamo tutti diversi, ognuno con problemi suoi, almeno io ho capito così. Io ho questo problema del sale, so di averlo, ma non potete accusarmi per il sale. È come se tuo figlio gli arriva l'influenza e tu lo sgridi. Non si fa, brigadier, non si fa. Voglio dire, brigadier, io ci sto provando, ce la sto mettendo tutta, che devo fare? Tra l'altro, brigadier, io una cosa volevo chiedervi, in confidenza, che potete avvicinarvi? Volevo dire, se continuate a tenermi qua dentro chiuso, me lo dite io come faccio a capire il problema del sale, dolce salato, mai una volta, brigadier, mai una... Smettetela di farmi l'occhiolino, brigadier, smettetela! Facci freddo qua entra, brigadier, sa? Non è che si può avere una carta? Mi avete dato solo un fiammifero, brigadier. E che ci faccio io con un fiammifero? Come riscaldo io se non ho fuoco? Che la potete abbassare la musica, brigadier, per piacere? Mena, perché non volete abbassare la musica? Che vi siete arrabbiato? 5 minuti? Si è arrabbiato il brigadier, non vi raccomando, brigadier, tutto si aggiusta. Vedete a me, brigadier, voi non vi potete stressare, se vi stressate morite giovani, avete capito? Vi dovete rilassare, dovete vivere la vita con rilassatezza, senza pesi, leggeri. Ridete, brigadier, se ridete state dalla mia parte, siamo tutti bravi. Adesso vi faccio un gioco, così voi vi rilassate. Guardate la cozza, brigadier, la vedete bene la cozza? Guardatela bene, brigadier. Guardatela bene, brigadiere, è in questa mano, non si sa, ve lo dico dopo, brigadiere, voi vi dovete rilassare, se vi rilassate è tutto a posto, avete capito, brigadiere? Fatevi un sorriso, fatevi un sorriso, vivetevi la vita con leggerezza, brigadiere, toglietevi i pesi d'addosso. Che cosa? Volete sapere che fine ha fatto la cozza? Che fine ha fatto la cozza? Ve lo dico dopo, voi mi promettete che me lo fate un sorriso? Bene, fate un sorriso! Guardate, brigadiere, la cozza è scomparsa. Allora io vi facciamo una sfida, una promessa. Io vi dico che fine ha fatto la cozza, ma voi un sorriso me lo dovete fare. Una risata. Vi liberate di un peso, va bene? Va bene. Allora prima vi faccio vedere che fine ha fatto la cozza. Un attimo, brigadiere. Ecco, brigadiere, guardate. L'ho cagata, brigadiere, la cozza io l'ho cagata. Adesso voi dovete mantenere la promessa. Fatemi un sorriso, mena. Guardate come siete belli, brigadier! Vi siete illuminato d'immenso, brigadier! Adesso, dopo tutto questo burdello, per favore, la volete abbassare la musica? Mi si incastra tra le pensieri e non mi fa ragionare! Vi racconto storie sbagliate poi! Per favore, togliete la musica! Ah, c'è fatica! Mamma mia! Così! Adesso avete capito come sono diventato uomo? La gente dice che da quando sto qua dentro sono diventato uomo. La gente non sa niente. Voce di popolo, voce di porco, come diceva mio nonno. Mio nonno non sapeva niente, ma ha fatto studiare i figli. Sì, era ignorante e aveva le rughe pure sul sedere. Mo da giù fa vedere. No, un attimo. Qua dietro, che quando andavamo al mare io gli chiedevo sempre come faceva a sedersi su quelle rughe e gli chiedevo se facevano male e poi dicevo a mia madre che le rughe sul sedere, avete capito dove, brigadiere? Le rughe a me non me le doveva fare nessuno e infatti nessuno le ha fatte a me, ci mancherebbe. Chi io? Sto dicendo, devo continuare, brigadiere, e se non voglio, per forza devo continuare. Allora è un interrogatorio. Sì, una chiacchierata. No, perché se è un interrogatorio, io devo ripetere. Non ho ripetuto tutto per bene. Le guerre puniche non le so. Io lo sono diventato. E sono diventato uomo per tre cose, il sale, la forza umana e la donna che ho incontrato. Il sale, già ho detto, la forza umana. Adesso vi faccio vedere. Un attimo. Non devo dire niente della forza umana, brigadier. Si vede tutto dal corpo. Tanto più forte sono, nessuno mi può fare niente. Che cosa ho fatto di male? Non ho fatto niente che Dio non può perdonare. E se Dio perdona, che cosa volete da questo bell'uomo che fa gli esercizi tutti i giorni a questo bel fisico? La signora mi guardava negli occhi e mi voleva vedere che facevo schifo mentre stavo nella gabbia. Schifo perché mi ero mangiato le persone. Ma la signora sa niente del sale? No. E allora chi non sa, non giudica. Vedi questi muscoli che mi sono venuti? Questi muscoli sono muscoli delle fibre che ho mangiato. Da piccolo, fibre vegetali. Da grande, fibre muscolari. La signora non sa niente della salatura. Niente di nessuno, niente di mio padre. Che cosa vuole la signora che mi guarda? Vuole vedere lo schifo? Lo schifo ce l'ha negli occhi la signora. Non io. Io. No. Guardate la forza umana, brigadier. Guardatela. Così. Così sono diventato uomo. Quando uno capisce il sale, diventa un uomo. E lo dicono tutti a me. Scusate, brigadier. Mi sono fatto prendere la mano. Mi dovete veramente scusare. Che sapore che ha la carne bagnata, brigadier. Voi non ve lo potete nemmeno immaginare. Un giorno vi devo invitare e dovete mangiare con me. Voi fatemi uscire e vedete se non vi invito. La carne si bagna assai, eh? L'acqua del mare la indurisce, tutta indurita. La carne, anche se la cucini, prima deve perdere l'acqua che l'ha inzuppata, l'acqua che è entrata nelle fibre muscolari. Le fibre muscolari. Quelle che da piccolo si chiamavano fibre vegetali e si mangiavano col latte, da grande si chiamano fibre muscolari e si mangiano col pane. Sì, io da piccolo mangiavo le fibre. Da piccolo non avevo niente da fare, brigadier, mi facevano tutto mamma, papà. Come capita a tutti, brigadier. Non so se è capitato pure a voi di avere una mamma o qualcosa del genere. Ad un amico mio non era capitato. A scuola veniva con me. No, non gli era capitato di avere una mamma. E io non capivo niente. Da dove se ne veniva questo mio amico? Poi ho pensato che se ne veniva pure lui dal mare. Solo che lui era arrivato vivo o qualcosa prima di nascere. Non lo so, brigadier. Ci sono dei pensieri che mi confondono a me come uomo? Sì che sono un uomo adesso. Basta con le fibre vegetali. Adesso le fibre muscolari. Le fibre muscolari con il pane la sera al mare. Vedete se la prendo quella, sa? Che è quella la fibra, eh? E mangiare. Sì, brigadiero, così, mangiando sono diventato uomo. L'ho detta ad un amico mio ed è diventato uomo pure lui. Soltanto a sentire quello che avevo fatto io. Che non è finita quello che ho fatto io. Non è finita per niente. Perché un giorno, mentre stavo lavorando la carne, e cucini è dolce e cucini è sbagli, ho visto che le onde hanno avvicinato un altro corpo. E mentre stavo là a preparare la carne e il sale, ho preso quest'altro corpo che galleggiava. E non era corpo di uomo, brigadier. E nemmeno di pesce. E nemmeno di animale caduto nel mare per caso, che ne so. Era corpo di donna. Di donna, brigadier. Un corpo di donna tutto per me. E io non lo volevo mangiare. E non l'ho mangiato. L'ho preso dal mare. L'ho preso con calma. Sapete come si prendono per mano le donne, no, brigadier? Senza fare male. L'ho preso e l'ho avvicinato senza farlo urtare sugli scogli. E che da noi al mare stanno gli scogli, alcuni appuntiti e alcuni lisci. Ma soprattutto quelli appuntiti stanno... Sì, l'ho presa dal mare. Era bellissima. Non come vostra moglie, che l'ho vista qualche volta quando è venuta a trovarvi. Non come vostra moglie, che è brutta. Come un udebutu, diceva mio padre. Non lo vedo più mio padre. Ebbene, sono un uomo adesso. E il mare, giustamente, mi stava dando una donna. Per fare la famiglia. Che la famiglia è la cosa più importante al mondo. Me l'ha detto mia madre a me, prima che mi chiudevate qua dentro. Il sale e la famiglia sono le cose più importanti che stanno. Sì. Sì, stanno le cose importanti e sono queste. Dio, sale... E famiglia. La donna che arriva dal mare, sei donna di marine, donna che apre le riviere. Questo è un poeta che l'ha detto. Ma non mi ricordo chi. Dice la poesia. Io la conosco la poesia. Mi esercitavo da piccolo a casa. Esercizi di memoria. Sì, la poesia va bene per la memoria. La poesia che contiene i versi, è il pesce che contiene il fosforo. Questo va bene per la memoria. Che mi state facendo di nuovo l'occhiolino obbligatorio? Per la donna che vi fa dell'occhiolino? O per vostra moglie? Che stavate ridendo? Per la cosa del pesce, scommetto! Me, ridete! Mena, ridete almeno una volta! C'è tipo... Com'erano belli gli occhi di quella donna quando gli eri aperti. E li guardavo tenendoli con l'indice e il pollice della mano sinistra. Poi gli ho aperto anche quello con la destra. E la guardavo negli occhi. E gli ho detto che ero contento di vederla finalmente. Ma lei non rispondeva. E visto che non rispondeva e stava stesa sulla spiaggia, mi sono steso pure io a fianco a lei. E le tenevo la mano. Mentre sopra stavano le stelle. Quanto è quante stelle stavano, brigadiere? Che notte di stelle che c'era quella notte! Sembrava che le stelle si dovevano mettere una accanto all'altra proprio quella notte, per farsi vedere dalla mia famiglia. Una sfilata di stelle. E io me le guardavo, e qualcuna la conoscevo pure, eh. L'orsa maggiore, che è un'orsa, 7 stelle di orsa. E la stella polare, queste stelle io le conosco, non so voi, ma io le conosco. Sì, sì, me la tenevo per mano a lei, che stava tutta bagnata sugli scogli. Ed era bello tenerla per mano, un po' freddo, ma bello. Poi mi sono girato verso di lei, di profilo, così. E ho visto com'era bella la maglia tutta attaccata. Questo non lo so se lo posso dire, brigadiere. Chissà se lo posso dire questo. Non mi fate l'occhiolino, tanto siamo tra uomini. Voglio dire, quelle cose che stanno qua, all'altezza del petto, che non tutti le hanno, ma le donne sì. Non tutte le donne. Almeno io mi ricordo che alcune donne tu le vedi e sembra che le tette... Non desiderare la donna d'altro! Non volevo dire la bestemmia delle tette, brigadiere, mi dovete scusare, veramente, brigadiere. Io sono un uomo, so il sale, non volevo dire questa bestemmia, veramente, brigadiere. Voi mi dovete scusare, anzi, mi dovete perdonare. Il perdono è importante, chi perdona è Dio, diceva mia nonna. Se voi mi perdonate, siete Dio. Siete Dio o brigadiere voi? Che stavate ridendo? No, è che non vi vedo perché è buio. Non state ridendo, mamma. Allora io me le sono toccate. Avete capito chi? E dite sì, ho capito, perché mi fate l'occhiolino? Mi fa l'occhiolino, mi fa. Erano dure alla punta. Ma aveva la camicia bagnata, allora io le ho tolto la camicia. Ma prima ho chiesto, ho chiesto perché non si fa ad una donna senza chiedere il permesso. E lei si è stata zitta. E chi dace? Acconsente! Allora io ho pensato a me, ecco, ci sta. Adesso la spoglio tutta e lei si lascia spogliare. Così ho pensato tra me e me. E gli ho tolto la camicia. Com'erano belle quelle montagne rosa che teneva. Belle montagne di roccia fredda, come quelle che ho visto di mia zia una volta, ma quelle erano appese, non mi erano piaciute. Allora io me le sono toccate, mentre sopra stavano le stelle. E dicevo tutte le poesie che mi ricordavo, la donzelletta, il meriggiare pallido, ho detto forse perché della fatal quiete, rimembri ancora, tutte le ho dette quella sera, brigadiere, e mi sentivo una specie di sensazione al petto. Dice che quella è la felicità. Sapete quando nel petto vi sentite come un'appoggiatura? Nel petto un'appoggiatura? La felice armonia. Come diceva il professor Milluzzi, nel petto. Allora io me ne sono toccata. E lei stava zitta, rilassata. Nella notte nera finita, quando stanno soltanto i rumori delle stelle. Allora io mi sono messa a cantare tutte le canzoni che conoscevo. E poi ho smesso. E mi sentivo un uomo romantico al mare, con la sua famiglia. Poi mi sono ricordato di quello che si fa con le donne. E allora l'ho spogliata tutta. E mentre là intorno la carne si stava bruciando. E la carne di quegli altri di prima. L'ho spogliata tutta e ho chiesto se potevo farlo. L'amore, diciamo. Fare l'amore con... Avete capito, brigadiere? E lei si è stata zitta. E chi tace? Acconsente. Non ce l'avete la musica di prima, brigadiere? Che la potete mettere? Non per niente, ma l'amore vuole la musica come la carta vuole il fumo. Che stavate ridendo? Che bella notte che è stata quella notte. Ma mi sono raffreddato, perché io l'ho visto nei film che bisogna stare nudi per fare quelle cose. Bisogna stare nudi, altrimenti penso io non viene bene. Sì, l'ho fatto con lei, ed era la prima volta al mare. Come i ragazzi che se ne vanno al campeggio e poi tornano fidanzati. E io mi ero fidanzato senza nemmeno spendere i soldi del campeggio, briga di essi. Poi l'ho lasciata così sugli scogli e me ne sono andato. Vabbè, perché mi era venuta fame e dovevo ancora imparare il sale, avete capito, brigadier? L'ho lasciato così sugli scogli vicino al mare e me ne sono andato. A quel punto sono venuti i cani. Schifo di cani che hanno sentito l'odore della carne che stavo cucinando. Mi sono venuti vicino e si sono mangiati tutta la carne mia. Quella cotta è salata, quella dolce è cotta. E quella cruda. E un cane mi è andato pure a mordere la famiglia. Sì, me l'ha rotta tutta l'altezza della coscia. Mo, se si può dire coscia. A me così non mi piaceva più, brigadier, allora ho divorziato. L'ho buttata nel mare e ho divorziato. Che me ne facevo io di una donna con la coscia rotta? Non la volevo nemmeno mangiare perché morsa dei cani. Magari gli avevano azzeccato la rabbia, che ne so. Adesso, brigadier, adesso mi sono stancato e ho bisogno di riposare. Posso stare zitto un po'? Tanto sta la musica, posso stare? E smettetela di farmi l'occhiolino! Muoviti dell'occhiolino! Questo è fuoco. Senza il granello il fuoco è niente. Ce l'ho, ce l'ho. Dove devi sfuggire? Eccolo il granello. Ecco, brigadier. L'odore della carne salata. Sale, ha azzeccato giusto, brigadier. È un peccato, non mi posso far assaggiare. Che cosa? Che cosa? Pazzo a me? Ma che state dicendo, brigadier? Io non sono pazzo. Voi non ve lo volete nemmeno immaginare che capita a voi che una mattina vi svegliate e non azzeccate mai più il sale, no? Sì. Che, volete mettere la musica? Così pensate alle chiacchiere. Mettetela, tanto tutti uguali siamo obbligati, sta scritto sui giornali. Uno come voi e come me, una persona come voi e come me, una volta ha preso un bambino e l'ha sciolto nell'acido. Sì, stava sul giornale. Noni? Uno come voi e come me, una volta ha preso una donna incinta, l'ha aperta dalla pancia, ha preso il bambino che c'era dentro e ha sparato. E al bambino ha sparato. Cattivi? Brigadier, dentro al fondo di tutto a noi ci viene da ridere. E se ci viene da ridere siamo uguali. Nemmeno una volta dovevate ridere, brigadier. Uno come voi e come me, una volta, ha preso una bomba e l'ha messa sul treno. Pum! Il padre ha violentato la bambina e poi l'ha uccisa. È normale, no? Brigadier, se siete come me, allora mi potete uccidere, però lo dovete dire, siete pari a me, allora mi potete uccidere. Ma se siete meglio di me, brigadier, non mi potete fare niente, avete capito, brigadier? Che fate adesso? Non ridete? Ridete, brigadier, ridete. Se ridete, siete con me, niente mi potete fare. È semplice, sa? Se siete come me, allora mi potete uccidere, però lo dovete dire. Ma se siete meglio di me, non mi potete fare niente. Voi siete come me, non è vero, brigadier? Stavate ridendo. Vi ho visto io prima che stavate ridendo. Uguali siamo, brigadier. La sentite la musica, brigadier? La sentite? La sentite com'è bello? Non fa pensare a niente la musica, brigadier. La sentite? È come un'appoggiatura qua, in mezzo al petto. La sentite? L'appoggiatura, brigadier, la sentite? Vedete che la sentite pure voi, brigadier? Uguali siamo, ve l'ho detto io. Andatevene a dormire adesso, me. E statemi bene. Che il diavolo non viene a chi dorme.